Abbiamo cercato anche di contattare qualcuno, non so, esponente cattolico, magari che difendesse dal punto di vista della filosofia, no? Ma io non credo che ci sia una filosofia. Eh no, ma infatti non ne abbiamo trovato tutti anche che dicono no, ma assolutamente. Si è arrivato così, no? Non c'è una filosofia. Se lei prende l'articolo, vedrà che ci sono un insieme di controversie. Penso soprattutto i sindacati hanno protestato, per esempio, perché non sono più gratuite nei gradi di primo e secondo le controversie sul lavoro, non sono più gratuite le controversie di carattere previdenziale, che erano fino adesso erano gratuite, per cui direi non c'è proprio una questione presa di mira in nome di un principio etico o di uno scoraggiamento a separarsi o divorziarsi. C'è tutta una politica sui costi delle controversie giudiziarie.